Roboamo si recò a Sichem, dove s'era raccolto tutto Israele per farlo re. Avutane notizia, Geroboamo, figlio di Nebat, ritornò dall'Egitto dove ancora si trovava dopo essere fuggito dal re Salomone. Lo mandarono a chiamare. Geroboamo e tutta l'assemblea dissero a Roboamo: «Tuo padre ha appesantito il nostro giogo. Ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il pesante giogo che ci ha imposto, e noi ti serviremo». Egli rispose loro: «Andatevene via per 3 giorni, e poi tornate da me». Il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consultò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone suo padre quando era in vita, domandando: «Che mi consigliate di rispondere a questo popolo?» Quelli gli risposero: «Se tu oggi sarai condiscendente con questo popolo, ti sottometterai e dirai parole buone, essi saranno tuoi servi per sempre». Ma egli rifiutò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consigliò con giovani che erano cresciuti con lui e stavano al suo servizio. Domandò loro: «E voi, che cosa mi consigliate? Che cosa risponderò a questo popolo che mi ha detto: alleggerisci il giogo impostoci dal tuo padre?» I giovani che erano cresciuti con lui gli risposero: «Così parlerai a questo popolo che ti ha detto: tuo padre ha appesantito il nostro giogo, ora tu rendilo più leggero. Così dirai loro: il mio dito mignolo è più grosso che i reni di mio padre. Mio padre ha reso pesante il vostro giogo, ma io ve lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha punito con le sterze, ma io vi punirò con gli scorpioni». 3 giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva ordinato il re, dicendo: «Ritornate da me il 3° giorno». Il re rispose al popolo duramente, rifiutò il consiglio che gli avevano dato gli anziani e disse loro, secondo il consiglio dei giovani: «Mio padre vi ha reso pesante il vostro giogo, ma io ve lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha punito con le sterze, ma io vi punirò con gli scorpioni». Il re dunque non ascoltò il popolo. Ciò era a disposizione del Signore affinché si realizzasse la parola che il Signore aveva detto a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Achia di Silo. Quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto, rivolse a lui il discorso seguente: «Che parte abbiamo noi con Davide? Noi non abbiamo eredità con il figlio di Jesse. Alle tue tende, o Israele, ora provvedi alla tua casa, o Davide». Israele ritornò alle sue tende, ma sui figli di Israele che abitavano nelle città di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo inviò Adoniram, preposto ai lavori forzati, ma gli israeliti lo lapidarono e quegli morì. Allora il re Roboamo s'affrettò a salire su un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si separò dalla casa di Davide fino ad oggi. Quando tutto Israele udì che Geroboamo era ritornato, lo chiamarono all'assemblea e lo fecero re su tutto Israele. Nessuno seguì la casa di Davide, fatta eccezione della sola tribù di Giuda. Roboamo giunse a Gerusalemme e convocò l'intera casa di Davide e la tribù di Beniamino, 180.000 guerrieri scelti per fare guerra alla casa di Israele e per restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. Ma la parola del Signore fu rivolta a Semeia, uomo di Dio, in questi termini: «Parla a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda e di Beniamino, e al resto del popolo, dicendo: così dice il Signore: non salite né combattete con i vostri fratelli, i figli di Israele. Ciascuno ritorni alla propria casa, perché da me proviene questo fatto». Essi ascoltarono la parola del Signore e se ne ritornarono come aveva detto il Signore. Geroboamo ricostruì Sichem sulla montagna di Efraim e vi si stabilì. Uscito di qui, ricostruì Penuel. Geroboamo pensò pure in cuor suo: stando così le cose, il regno ritornerà alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire al Tempio del Signore in Gerusalemme per offrirvi sacrifici, il cuore di questo popolo ritornerà al suo Signore, a Roboamo, re di Giuda, e mi uccideranno. Perciò il re prese la risoluzione di fare 2 torelli d'oro e disse al popolo: «Non salirete più a Gerusalemme. Israele, ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Quindi li collocò uno a Betel e l'altro a Dan. Questa fu la causa del peccato per Israele. Il popolo infatti andava in processione innanzi all'uno a Betel e all'altro in Dan. Eresse anche il santuario delle alture e costituì sacerdoti presi dal popolo comune che non erano figli di Levi. Geroboamo istituì pure una festa, il 15 dell'ottavo mese, corrispondente alla festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì all'altare che aveva costruito a Betel, sacrificando ai torelli da lui fatti, e stabilì a Betel i sacerdoti delle alture da lui istituiti. Il 15 dell'ottavo mese, mese da lui arbitrariamente scelto, salì all'altare che aveva eretto a Betel. Aveva istituito infatti una festa per i figli di Israele ed era salito all'altare per bruciare aromi.